9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 4 novembre e come 4 novembre innanzitutto un augurio ai tanti Carlo che mi sono cari, perché oggi è San Carlo Borromeo, e secondo un saluto e un augurio fervido a tutti coloro che portano la divisa, hanno portato la divisa, oggi è il giorno delle Forze Armate, a tutti i parenti di coloro che portano o hanno portato una divisa e a maggior ragione sostegno, solidarietà e calore ai familiari di tutte le vittime che indossando la divisa hanno dato la propria vita in questi anni nelle missioni all'estero in nome e per conto di tutti noi che sommati siamo la Repubblica Italiana e il minimo nel giorno delle Forze Armate. Il tema di oggi. Allora, il tema di oggi affronta uno dei classici della vita italiana che ci dividono e ci spaccano dall'inizio degli anni 90, perché dividono l'opinione pubblica italiana in due fronti. Un primo fronte che sostiene, di fronte al degenerare della politica, dell'amministrazione, guardate solo ieri che cosa succede nelle cronache in Puglia, in Campania, in Sicilia con queste retate di amministratori pubblici, imprenditori privati, beni sequestrati per centinaia di milioni per inquinamento delle gare pubbliche, degli appalti, insomma la vita italiana continua a essere caratterizzata da episodi frequentissimi, commistioni improprie di questo genere, e c'è allora chi sostiene: non si può, per raddrizzare questa vita così caratterizzata da impropri intrecci e incroci, che trasporre nell'azione dei magistrati, nel rispetto della legge, nella battaglia per la legalità, valori, convinzioni che devono essere e possono essere talora convinzioni e valori forti e che magari rispecchiano orientamenti culturali forti e anche un po' politici, dove per politici naturalmente non si parla di appartenenza a un partito, ma di una visione dichiarata molto forte. C'è nella vita italiana chi si è battuto perché la magistratura dagli anni 50 e 60, caratterizzata da una diversa forma organizzativa degli avanzamenti, delle promozioni, all'epoca c'era un filtro per arrivare alla Cassazione e questo filtro era anche caratterizzato da un adeguamento agli orientamenti giurisprudenziali che andavano per la maggiore, che invece c'è chi si è battuto e ha detto no, noi abbiamo bisogno di una magistratura molto più fortemente aperta alla società e che trasponga nel fare giustizia le idee di una società che ancora non è riuscita ad attuare in toto la Costituzione. Erano quelli gli anni in cui, ricordate, c'erano le prime indagini sul lavoro, per esempio, caratterizzate da una forte volontà di interpretazione, per così dire, progressiva dei valori in Costituzione che nel codice e magari nelle sentenze non c'erano. E quindi noi siamo reduci da decenni di vita associativa della magistratura in cui questo dibattito è stato molto forte, e poi diciamo dalla fine della Prima Repubblica in avanti c'è un altro partito, per così dire, forte nell'opinione pubblica e forte soprattutto nella politica, che dice no, proprio questa azione caratterizzata dalla volontà del trasporre nel fare giustizia valori e opinioni forti è una politicizzazione impropria della giustizia, che rischia di fare della giustizia una specie di braccio armato improprio quando la lotta politica non è in grado essa da sola di ottenere i risultati che si prefigge. E questa è l'eterna polemica che ci portiamo dietro su ogni riforma tentata e di solito fallita dell'ordinamento, su ogni impostazione tra separazione delle funzioni o separazione delle carriere giudicanti e invece requirenti. Ed è questo un classico della vita italiana. Su questo tema oggi torniamo a parlarne, ma ho scelto di farlo con un punto di vista caratterizzato, netto e che secondo me è molto interessante, perché ieri leggendo le cronache relative alla conclusione del congresso di Magistratura Democratica che si è tenuto a Napoli, Magistratura Democratica, lo ricordo a tutti, è la corrente associativa che più si è caratterizzata negli ultimi decenni proprio per questa volontà di aprire il fare giustizia a valori forti e valori di sinistra. E all'esito di questo congresso che ha sancito la vittoria, diciamo, dell'ala riformista della corrente, di quella che un po' impropriamente passa per essere meno oltranzista, per così dire, e quindi è stato eletto presidente Marini, sono stati c'è il segretario in pectore Morosini, Pesci e Rinaldi. In qualche modo l'esito di questo congresso ha sancito un dibattito a cui il paese è stato un po' poco attento, ma che è un dibattito che in questo anno, in occasione di importanti nomine da parte del CSM di uffici giudiziari, è stato un dibattito che si è tenuto in realtà sotto i nostri occhi, ed è un dibattito in cui altri esponenti storici di Magistratura Democratica hanno dichiarato: noi non siamo tanto d'accordo. E ieri, all'esito di questo congresso, infatti, un esponente storico di Magistratura Democratica, consigliere di Cassazione Livio Pepino, ha dichiarato al Corriere della Sera: no, io, sebbene mi manchino parecchi anni alla pensione, lascio, me ne vado, appendo la toga a un chiodo. Perché? Perché l'eresia di Magistratura Democratica è finita. Queste sono le sue testuali parole, e mi hanno ricordato un articolo che uscì nel luglio di quest'anno, 14 luglio per la precisione, sul Manifesto, sempre di Livio Pepino, perché era la stessa espressione, l'eresia di Magistratura Democratica, che Livio Pepino in quell'articolo ricordava. E che cosa diceva in quell'articolo? Diceva che noi siamo reduci dalla fondazione della Repubblica ai suoi primi decenni per lungo tempo a un intreccio improprio tra magistratura e luoghi del potere politico ed economico, e ne ricordava le tappe, per così dire. Diceva: ancora negli anni 70 un procuratore generale della Cassazione definiva gli infortuni sul lavoro una fatalità, oppure gran parte della magistratura siciliana era attestata sulla tesi che la mafia non esiste, oppure la Procura della Repubblica di Roma era allegramente e non per caso chiamata porto delle nebbie. E poi ricordava molti altri episodi, la P2, gli anni in cui parti, diciamo così, dello Stato che poi consegnano la loro storia a importanti inchieste su fasi oscure della vita della Repubblica, erano le sue parole, avevano come alleato naturale nella magistratura la corrente di Magistratura Indipendente, che raggruppava oltre il 40% dei magistrati italiani, e così via. E a un certo punto diceva Livio Pepino sul Manifesto: quell'intreccio perverso, quella omogeneità di settori consistenti della magistratura con il sistema politico è stato in grande misura spezzato negli anni 70, non per caso con l'attività di denuncia di forze democratiche per irrompere nel corpo giudiziario dell'eresia di Magistratura Democratica. Ecco qua. Un'eresia, scriveva a luglio, che ha significato rottura delle protezioni corporative, rifiuto del conformismo, introduzione nell'istituzione del punto di vista esterno, critica di modalità di gestione degli uffici e anche di orientamenti giurisprudenziali o di decisioni giudiziarie. È stato lo scandalo di un gruppo di magistrati che ha introdotto nel corpo giudiziario un modo di vivere, di pensare, di agire, di fare, come è stato detto, le cose che altri non hanno la voglia, la forza, o il coraggio o la fantasia di fare, nella strada tracciata dalla Costituzione, in particolare dall'articolo 101, che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge, cioè escludendo ogni altra dipendenza, diretta o indiretta, dal palazzo e dai suoi esponenti. Ma non tutto è acquisito una volta per sempre, diceva a luglio, e ieri la conclusione. No, tutto non è acquisito una volta per sempre, perché l'eresia di Magistratura Democratica, dice Livio Pepino, è finita, e quindi io lascio. Allora, ho deciso apposta di partire con Livio Pepino perché, un po' stanco, a dire la verità, di leggere e proporre solo le polemiche sull'eccesso di politicizzazione, mi sembra molto interessante capire da un padre di Magistratura Democratica, che non ha mai nascosto le proprie convinzioni, come e perché, a suo giudizio, anche in Magistratura Democratica quell'eresia si è spenta. Cioè, c'è qualche cosa che, rispetto a questa grandissima ventata che ha scosso il fare giustizia nel nostro paese, ai suoi occhi non va. Ed ecco, dopo questa lunga introduzione, con noi Livio Pepino, che io ringrazio e cedo a lui la parola per spiegarci in che cosa l'eresia è intaccata. Beh, grazie a lei anzitutto, e poi direi che ha fatto un'introduzione assolutamente completa e precisa, che mi facilita il compito. Dunque, io credo che il riferimento che lei ha fatto all'eresia finita, che effettivamente il titolo del Corriere della Sera di ieri, e in realtà non la mia dichiarazione ma il titolo di chi ha fatto una sintesi un pochino impropria. La mia posizione è un pochino diversa. Io credo, da vecchio movimentista, come si diceva una volta, che devono succedersi degli strappi. le eresie, se non continuano ogni tanto a rinnovarsi, rischiano di diventare ortodossie e di creare un nuovo ordine con tutti i difetti e tutti i problemi del precedente. Allora io credo che ogni tanto ci sia la necessità di riflettere su quello che sta accadendo. A mio modo di vedere, questa parabola della magistratura che lei ha descritto e che io considero positiva è una parabola che ha bisogno di nuovi momenti di riflessione. Io penso che ogni stagione debba avere i suoi interpreti. Credo che ci lamentiamo tutti nel tempo che i politici non cambiano mai, che la politica è sempre la stessa, che sono sempre le stesse facce. Credo che non basti proclamarlo, ma si tratti di praticarlo. Io sono da 40 anni dirigente di Magistratura Democratica, pensi un po', dal 1970, beh, credo che la nuova stagione, una nuova stagione della giustizia, momenti di riflessione per inverare sempre di più la Costituzione, debbano necessariamente trovare dei nuovi interpreti, dei nuovi attori, dei nuovi protagonisti. Questo lo si ottiene solo facendosi da parte, e io mi sono fatto da parte prima della conclusione del congresso. La mia non è una reazione all'esito congressuale, che è molto più complicato di una di uno scontro tra riformisti e radicali. C'è un grande rinnovamento in atto nel gruppo, un rinnovamento che io credo vada favorito, mantenendo quella stella polare che lei ha ricordato. Nessuno pensa, o comunque Magistratura Democratica non pensa e non ha mai pensato, che la giurisdizione debba sostituirsi alla politica. La società giusta o la realizza la politica o non la realizza nessuno, e comunque non la realizza la magistratura. La magistratura però ha un compito rigoroso di tutelare sui diritti, sulle garanzie di tutti, in termini di uguaglianza, come vuole l'articolo 3 della Costituzione. Il problema si poneva in un certo modo negli anni 70, quando siamo nati, si pone evidentemente in un modo diverso 40 anni dopo. Non capirlo è da sciocchi. Io credo che si tratta di trarne le conseguenze e di consegnare, per usare questo termine, il testimone ad altri che questo lavoro di approfondimento, di organizzazione di cultura, di capacità di incidere sugli orientamenti giurisprudenziali devono avere e devono trovare. Ora, un'osservazione, perché c'è chi, guardando con una punta, diciamo, di malizia, ma come più o meno inevitabile quando si guarda fenomeni associativi dall'esterno, è ovvio che mai, se si fa la professione di giornalista, si riesce a spiegare il congresso, una tappa di una vita di un'associazione con la stessa proprietà e con gli stessi occhi di chi vi partecipa da anni, da decenni, perché è ovvio che è così. Il giornalista tende un po' a essere malizioso e a sintetizzare. Allora, lo so, e allora io faccio. Ho una impressione, glielo chiedo scusandomi con lei se le apparirò improprio. C'è chi mi ha fatto notare che in realtà la dialettica tra voi, tra figure, voglio dire, di rilievo, di spicco, di Magistratura Democratica, ha anche un pochino a che vedere con fatti che, diciamo, potrebbero far pensare anche di essere attinenti a quello che sta avvenendo. Perché? Perché c'è chi mi ha fatto notare che la dialettica in realtà tra esponenti come lei, come Giancarlo Caselli, insomma un po' i duri e puri, ecco, dovessimo adesso usare una formula impropria che sicuramente lei respingerà, di Magistratura Democratica, ed altri esponenti di Magistratura Democratica come Vittorio Borracetti, Nello Rossi, come Edmondo Bruti Liberati, che in questi giorni si è dovuto pronunciare su alcune vicende di impatto politico e istituzionale molto delicato, insomma, e che lo ha fatto riconoscendo la piena correttezza delle procedure di identificazione, fotosegnalazione e affidamento della minorenne marocchina, prima, e poi con una dichiarazione in cui dice che la procura accerta e persegue reati e non vite private. Ma ecco, c'è chi mi ha fatto notare che questa dialettica tra voi va avanti da un certo periodo e in qualche maniera coinvolge, certo non le indagini su questo o quel caso, ma concerne, riguarda, investe anche il rapporto con la politica dell'Italia di oggi, anzi con questo governo. E allora, continuando sul filo della malizia, C'è chi mi ha detto: guarda che se ti vai a vedere le nomine che sono state fatte in Primavera e prima in CSM, qui c'è una cosa singolare, cioè ci sono gli esponenti di una parte di Magistratura Democratica che portano a casa nomine apicali, il mondo Brutti Liberati tra gli altri, che hanno avuto convergenze al momento del voto e sostegni, magari non tanto con la parte più intransigente, cioè i Movimenti Riuniti, ma con esponenti e rappresentanti laici in CSM anche del centrodestra, ed è su questo che c'è una dialettica vera in Magistratura Democratica, perché oramai se vai a vedere le nomine capisci che c'è un confronto vero, e se vai a vedere le nomine vedrai che oltre quando c'è stato il testa a testa tra Alfonso Marra di Unicost al vertice della Corte d'Appello, Marra la spunta, e sulla spunta su chi? Su Renato Rordoff, consigliere di Cassazione, candidato al blocco della sinistra, e la spunta grazie a due voti. Ci sono state, mi si è fatto notare, più occasioni in cui importanti funzioni apicali vi hanno visti oramai divisi. Le chiedo, fuori dai denti, c'è anche una divisione su questo governo, su Berlusconi? Ma io direi di no, ma anche rispetto alla prima parte delle nomine, cioè che ci sia nella magistratura che ci sia stata una grande diversità nell'ambito di alcune nomine importanti da parte dell'ultimo Consiglio Superiore, è vero. Direi che non ci sono state divisioni significative in Magistratura Democratica. Magistratura Democratica è stato l'unico gruppo, per esempio, che ha contrastato fino all'ultimo la nomina di Carbone a primo presidente della Cassazione, e abbiamo visto poi che cosa è accaduto. È stato il gruppo che si è espresso in un modo diverso sulla nomina del procuratore generale della Cassazione, spesso in condizioni di isolamento. Ha votato contro Marra alla Corte d'Appello di Milano, ha votato a favore di altri senza problemi di appartenenze associative. Io lo dico e capisco la malizia che ci può essere, perché tutti dicono sempre di aver agito in maniera trasparente. Io lo dico con assoluta convinzione, io ho partecipato a nomine e ho votato sempre chi ero convinto che fosse il più adatto per quell'incarico, indipendentemente da appartenenze correntizie, tant'è che ho sostenuto a volte candidati che nulla avevano a che vedere con la mia storia, con la mia cultura, ma che mi sembravano professionalmente più adatti per quell'incarico. Ripeto, non ci sono state divisioni significative in Magistratura Democratica, piccole divisioni, ma come è giusto che sia, perché c'è anche un pluralismo interno. Ci sono stati a volte, su candidati che noi abbiamo sostenuto, delle convergenze, ricordava il caso di Brutti Liberati alla Procura di Milano, e altre volte queste convergenze non ci sono state, ma questo è un problema che riguarda altri che hanno ritenuto meno di convergere, non la posizione nostra. Il che mi introduce alla domanda che lei faceva, e io ho una qualche difficoltà a dare una risposta, non perché abbia dei dubbi, ma perché devo tornare un attimo indietro. Io personalmente, ma Magistratura Democratica, rispetto a questo o a quel governo, di per sé non ha delle posizioni di consenso o di dissenso, ha delle posizioni di consenso o di dissenso, spesso durissimo, rispetto a delle posizioni, rispetto a delle scelte, rispetto a degli interventi di questo o di quel governo. Ora, rispetto alle scelte sulla politica legislativa, sulla politica giudiziaria di questo governo e di questa maggioranza, il dissenso è nettissimo, ma è nettissimo da parte di tutta Magistratura Democratica. Dopodiché ci possono essere, ci sono state, e questo accade da 40 anni, non è che ha cominciato ad accadere oggi, differenze di carattere terminologico, sfumature nel dire bisogna cercare magari di arrivare fino all'ultimo a verificare una certa situazione o un'altra, ma questo fa parte della dialettica, non nasce oggi. Io ricordo all'inizio di questa maggioranza governativa all'atto della nomina del ministro Alfano, per esempio io fui quello che scrisse un pezzo critico rispetto al fatto che tutti sembravano avere trovato il nuovo ministro capace di colloquiare. Io dissi e scrissi allora, e credo di non essere stato smentito dai fatti, aspettiamo, ma credo che nel merito, al di là delle forme meno ruvide di quelle che aveva il ministro Castelli a suo tempo, mi sembra che i contenuti siano gli stessi. Altri hanno preferito un periodo di maggiore attesa per verificarlo, ma questo non mi sembra una divergenza strategica fondamentale. Fermo, le ripeto, e a questo tengo particolarmente, che tanto è dura a volte l'opposizione, il conflitto sui contenuti, quanto è inesistente una opposizione pregiudiziale a questa, a quella maggioranza o a questo, a quel governo, per la ragione semplicissima che non è questo il compito né della magistratura né di magistratura democratica. Poi ciascuno singolarmente avrà le sue valutazioni, ma guai se ci fosse un gruppo di magistrati che si ergesse a opposizione, questo non esiste. E infatti su questa valutazione convergente io non posso che condividere, io che ho una visione ovviamente da liberale inveterato un po' distinta di come bisogna portare i propri valori nel fare giustizia e nella giurisprudenza. Il mio appello finale a Peppino è a ripensarci con grande calore e a far rimanere la sua passione di quelle roventi, di quelle che spaccano e dividono e che però sono dichiarate nella professione in cui ha portato la sua convinzione e le sue idee. In altre parole, lo avrete capito ascoltatori, io ho un po' ipotizzato, perché alcuni miei amici magistrati mi hanno detto ma questo è il mondo brutti liberati, ha avuto i sostegni di Saponara e di Caliendo al momento dell'elezione, ecco qua che poi al momento buono retribuisce Berlusconi. Io non penso che sia così. Chiunque abbia conosciuto il mondo brutti liberati, il procuratore di Milano, sa che è del tutto improbabile immaginare che ci sia una improprietà di questo tipo dietro alle decisioni di questi giorni. Per questo, anche per questo, ho chiesto a Livio Peppino di dirvi come la sua eresia non abbia una lettura di questo tipo. La sua eresia vuole dei fasi continue di strappi e di polemiche per continuare costruttivamente a dire: noi non siamo gli oppositori dichiarati di questo o quel premier, abbiamo una concezione nostra che dichiariamo nel fare giustizia, ed è su quella che continueremo a stare nella seconda parte. Io ringrazio Ivo Peppino che ha un appuntamento, deve lavorare, e quindi buona prosecuzione. Ora pubblicità. Eccoci tornati in studio. In questa seconda parte il punto di vista sarà deliberatamente, dichiaratamente, programmaticamente diverso, ed è il punto di vista che ha orientato anche me nei miei studi su cui mi sono formato e al quale vi dichiaro il mio conflitto di interesse, aderisco in toto, perché è con noi il professor Giuseppe Di Federico. Il professor Giuseppe Di Federico è professore emerito di ordinamento giudiziario all'Università di Bologna, per molti anni appunto è stato ordinario di ordinamento giudiziario ed è quello a tutti gli effetti è il fondatore di una scuola, la scuola di Bologna, si chiama così un po' tra addetti ai lavori, che è quella che ha organizzato sistematicamente, a mio giudizio, i più apprezzabili studi comparati dell'ordinamento giudiziario italiano rispetto a quello delle diverse tradizioni ordinamentali dei maggiori paesi, quelli di diritto codificato, classici nell'Europa continentale, come quelli di common law, mettendo in parallelo tutte le tipologie diverse di meccanismi di ingresso, selezione, promozione, misura o non misura, come nel nostro caso, del merito, della professionalità dei magistrati, per consentire agli studiosi, agli studenti, per consentire anche al dibattito pubblico e ai politici, che spesso parlano di queste materie ma poi sono abbastanza ignoranti, di capire meglio come qualmente, invece di continuare a fare dibattiti ideologici, fosse preferibile concentrarsi sugli aspetti concreti che caratterizzano uno sviluppo nel tempo molto anomalo del nostro ordinamento, perché il nostro ordinamento poi in larga ragione, proprio per il dibattito associativo dei magistrati e per magistratura democratica di cui ci ha parlato prima Livio Peppino, è diventato un ordinamento anomalo in tutti i paesi avanzati per meccanismo d'ingresso, per unità delle carriere, per la mancanza di filtri di merito negli avanzamenti, per il fatto che c'è la progressione automatica della retribuzione per i magistrati a prescindere dalle funzioni davvero svolte. Dopo X anni si arriva alla retribuzione di magistrato di Cassazione. Tutto questo in nome dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Ma è possibile mai che se nel resto della politica e dell'organizzazione amministrativa del nostro ordinamento noi facciamo così schifo in termini comparati, solo nella giustizia siamo riusciti a realizzare invece il non plus ultra dell'efficacia, dell'efficienza e dell'indipendenza dei magistrati? Questa domanda ha sempre avuto da parte nostra una risposta no, ed è grazie al professor Giuseppe Di Federico che lo abbiamo studiato meglio, a dire la verità. Dopodiché il professor Giuseppe Di Federico è stato anche al CSM, le nostre convinzioni di liberali sono convinzioni per il momento sconfitte nella storia, e la riforma dell'ordinamento non è mai venuta come la volevamo. Però chiedo al professor Di Federico, dopo averlo ringraziato, sentendo dichiarazioni come quelle di Pepino che dice l'eresia si è un po' attenuata, ma c'è bisogno di nuova eresia, perché noi non siamo oppositori di questo o di quel governo, noi siamo oppositori di una visione conservatrice del fare giustizia, un liberale come la deve pensare, professore? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno e grazie dei molti riconoscimenti, forse non tutti meritati, che mi ha voluto dare. Per quanto riguarda la posizione di Pepino, credo che abbia fortemente attenuato nella presentazione che ha fatto stamattina la sua posizione radicale. Lui ha perfettamente ragione nel dire che questa si è attenuata. Io che ho assistito alla fondazione personalmente, dico, di Magistratura Democratica nel 64 e alla scissione del 69, entrambe effettuate, avvenute qui a Bologna, certamente la Magistratura Democratica, che si è costituita in forma radicale nel 69, aveva posizioni molto diverse, molto più radicali di quella di oggi. Io che mi occupavo d'organizzazione, mi sentivo dire dai miei conoscenti di Magistratura Democratica: noi non vogliamo l'efficienza perché l'efficienza rafforza i padroni. Quindi da questo si sono un po' evoluti, diciamo, persone come Castelli a Milano certamente si occupa di Magistratura Democratica, si occupa di far funzionare i sistemi informatici. Quindi una evoluzione, una perdita di radicalismo c'è stato, preso le posizioni estreme, ma questa si è venuta attenuando nel tempo. Ecco, quanto alle contrapposizioni, bisogna guardare quelle che riguardano le nomine tra i magistrati e quelle che riguardano il potere. Per quanto riguarda il potere, l'esercizio del potere, la equiparazione della indipendenza con gli interessi corporativi, questo non divide nessuna corrente della magistratura, sono tutti insieme. Sono insieme nell'accettare e ritenere che non sia ipocrita che si vieti la iscrizione ai partiti politici, ma che numerosissimi magistrati nel tempo abbiano occupato posizioni politiche di tutti quanti i tipi, a tutti i livelli, da quelli locali a quelli nazionali, e poi eventualmente usciti dal Parlamento abbiano anche giudicato gli avversari politici. Su questo la magistratura non ha mai detto una parola. Cioè, questa divisione dei poteri fittizia che esiste da noi, con magistrati che, ricordo, al massimo della sua espansione nel 96, 50 furono i magistrati che si candidarono alle elezioni e 27 furono eletti. Poi abbiamo magistrati che sono in altre posizioni in Parlamento, li abbiamo alla Presidenza della Repubblica, li abbiamo alla Presidenza del Consiglio, li abbiamo nei ministeri, li abbiamo alla Corte Costituzionale, dove tutti gli assistenti di studio, circa 30, sono magistrati che concorrono a valutare le eccezioni di incostituzionalità che sono presentate dai loro colleghi che operano negli uffici giudiziari. Io al Consiglio ho sempre votato contro. Quindi c'è una formale divisione dei poteri, ma con una presenza dei magistrati in tutti i gangli decisori, di rilievo che diciamo consente loro, sfruttando anche le forze di sinistra che sono sempre disponibili a sostenere le istanze della magistratura, riescono addirittura a svolgere un'attività proattiva. Io posso fare degli esempi di leggi che ho predisposto per singoli, per un sottosegretario, faccio un esempio, Gargani, avevo predisposto una legge e gliel'avevo consegnata il pomeriggio. Il giorno dopo sono stato attaccato a una riunione dei magistrati per aver fatto una proposta di legge, per aver scritto una proposta di legge che minava l'indipendenza della magistratura. Naturalmente non aveva nulla a che fare con questo, però diciamo è pervenuta con un'immediatezza. Anche le pareti hanno orecchie, insomma. Anche le pareti hanno orecchie, perché poi c'è la posizione del ministro, che sostanzialmente è un ministro a responsabilità molto limitata. Ora, professore Federico, l'impressione da osservatore, lo dico, da osservatore che ha capito che a un certo punto fare polemica esplicita era quasi un autogol, perché la polemica esplicita che la politica porta, quando è la politica a finire sotto indagine, rende il politico che fa questa polemica sospetto agli occhi dell'opinione pubblica, e quindi c'è un gatto che si morde la coda. Io credo che questa sia l'origine del fatto che poi Berlusconi ha sempre preso i voti dicendo riforma ordinamentale e ha finito sempre per occuparsi dei suoi scudi personali, e la riforma ordinamentale non è mai venuta. Però io ho l'impressione da osservatore che rispetto allo scontro delle convinzioni politiche e culturali molto esplicite degli anni 70 e degli anni 80, il fenomeno associativo della magistratura, che è quello poi del grande compromesso che fa le delibere importanti nel CSM, dove i magistrati, ricordiamolo, sono maggioranza, abbia un carattere ormai un po' diverso, cioè parole e la difesa dall'attacco portato la magistratura dalla politica. In realtà mi sembra un grande accordo di potere tra correnti che un tempo avevano ispirazione diversa, ma oggi cui leader sono molto vicini nel dire: metto questo tuo amico qua, tu metti il tuo amico qua, tu mettiamo il terzo amico della terza corrente là e andiamo tutti insieme ci difendiamo poi da chiunque, sia di destra o di sinistra, voglia toccare qualcuna delle nostre prerogative, con la scusa dell'indipendenza. È un po' fondata questa impressione, secondo lei? Io, guardi, i consigli li ho seguiti tutti sistematicamente dal 64 ad oggi, come consulente di Rocchetti nel secondo consiglio, come assunto per in materia organizzativa dal terzo consiglio superiore. Ora, io soprattutto negli ultimi anni le correnti sulle nomine si sono divise, con poche eccezioni, l'unificazione della loro azione era sulla difesa dei loro poteri, in particolare dei poteri del pubblico ministero, che è la vera chiave di significato politico della magistratura italiana, perché noi abbiamo dei pubblici, quindi su questo sono uniti, questo è il punto di forza, È il punto contrattuale di più alto spessore. E temo che il bilancio di tutti questi 16 anni di riforme dichiarate e non praticate per copertura personale preferita sia che la magistratura in questa difesa resterà più forte e intoccabile di prima, e questo per me, sincero liberale che non crede affatto che in Italia ci sia la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza, che non crede affatto in questa specie di feticcio che l'obbligatorietà dell'azione penale, che obbliga in realtà la discrezionalità nel scegliere quale fascicolo aprire e perseguire e quale no. Io, siccome queste cose le vorrei cambiate, non tanto in nome degli interessi di Tizio e Caio come politico, ma in quanto credo che sarebbe una giustizia meglio al servizio del cittadino, perché la giustizia serve a dare strumenti al cittadino indagato per tutela contro lo Stato che lo vuole indagare, non serve allo Stato etico per realizzare la virtù su questa terra. Ed è questa la grande divisione tra chi la pensa come noi e chi pensa invece che bisogna portare le proprie convinzioni nel fare giustizia, perseguendo ideali di etica attraverso la giustizia dello Stato. E no, per me l'etica sta nell'individuo che va tutelato dall'ordinamento nei confronti dello Stato che mi chiama alla sbarra, perché non credo alla virtù realizzata su questa terra, credo alle leggi e a un ordinamento civile, ma rispetto alla virtù realizzata su questa terra è tutt'altro paio di maniche. Torniamo tra poco al professor Di Federico, ora le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci, tornati in studio. Iniziamo a sentire anche alcuni ascoltatori che ci hanno chiamato fin dall'inizio della trasmissione e sono pazientemente in attesa, mi scuso con loro. Innanzitutto cominciamo con Mauro che ci chiama da Napoli. Prego Mauro. Buongiorno. Vorrei esprimere due idee meschine e che possono dare il destro a chiunque di controllare il tenore della politicizzazione della magistratura. Sì. I pubblici ministeri fanno le loro, perché il campo mi pare che sia ristretto però grosso modo al penale, i pubblici ministeri fanno le loro arringhe in pubblica udienza, tutti possono sentire. I pubblici ministeri chiedono ai magistrati sentenze, i magistrati, i giudici fanno sentenze scritte che restano rese pubbliche dopo la firma e tutto il resto. Qui chiunque, qualunque cittadino può andare in cancelleria e farsi rilasciare a proprie spese una copia della sentenza. Queste sentenze si devono leggere e se i giudici fossero politicizzati dovrebbero esprimere le loro idee politiche nella sentenza. Se ciò non risulta e le argomentazioni sia dei pubblici ministeri in pubblica udienza sia dei giudicanti nelle sentenze sono soltanto di carattere giuridico, dove sta la politicizzazione? Senza tener conto che se anche per paradosso, per eccesso, il primo giudice si è politicizzato, anche il secondo di appello, anche la Corte di Cassazione, anche le sezioni unite della Corte di Cassazione. Mauro, ma non si scaldi così tanto, non si scaldi così tanto. Noi siamo partiti dal dare la parola in questa trasmissione a un esponente storico di Magistratura Democratica. Chiunque conosca la storia di quella corrente sa che è sempre stata esplicita la volontà di portare nel fare giustizia quella visione della società, da sempre. Poi il professor De Federico ci ha ricordato come si sia attenuato nella storia, ma insomma che si dovesse fare giustizia perché per esempio si tutelavano troppo i padroni nelle fabbriche è una cosa esplicita. Poi Peppino dice la difficoltà, ma anche la nostra assoluta convinzione è quella che noi non siamo oppositori del governo pro tempore. Poi ha detto naturalmente, io per primo dico che anche l'attuale ministro ha detto Peppino, gli ho dato più tempo rispetto agli altri, ma poi mi sono trovato naturalmente ad essere in opposizione perché le sue riforme non ci convincono. Però lì c'è un'esplicita dichiarazione di portare nella giustizia da sempre in Magistratura Democratica una visione della società e politica. Lei dice le sentenze e i provvedimenti non sono ad hoc, se no sarebbero comizi politici e si troverebbero. Sono d'accordo, ma lei conosce meglio di me come nell'uso degli strumenti di custodia cautelare negli interventi di questo tipo si può uccidere un politico, e i politici di diverso colore sostengono che questo è la prassi da tanti anni, dalla fine della Prima Repubblica allo strappo tra la prima e la seconda, e che permane nella seconda per via di questa anomalia che è sicuramente Silvio Berlusconi. Quindi Mauro, noi non volevamo offendere chi come lei pensa che sia una scusa dei politici. Io per primo non voglio parlare delle vicende dei politici e del premier, per questo mi pongo il problema generale di un ordinamento in cui così prima per l'attuazione della Costituzione, poi per questa anomala realizzazione dell'istituto dell'indipendenza e dell'autonomia e dell'articolo 101 abbiamo costruito una cosa, un ordinamento che non ha paragoni in tutti i paesi avanzati, non ce l'ha, ed è una cosa che rimanendo irriformata verrà continuata a essere declinata dai magistrati come una tutela della loro indipendenza. Io la prendo ormai come una tutela di privilegi, quelli che ho elencato prima, privilegi, questa è la mia impressione, solo che nel dirlo passi per fottuto aderente di uno che viola la legge e vuole lo scudo per sé, e questa cosa da liberale a me dà molto fastidio. Sentiamo Michele da Roma come la pensa. Michele da Roma c'è? Non c'è più Michele da Roma, sì, sentiamo sì, Mario. No. Ah, allora, eccoci, sì. Prego Michele. Sì, senta, io volevo dire che ci dobbiamo porre la domanda del perché solo in Italia ci sia questa turbolenza e questo duro contrasto tra magistratura e politica, del perché non accada in tutte le altre democrazie occidentali questo. Ecco, io ritengo questo, che Magistratura Democratica sia interprete di quella anomalia della magistratura italiana che era stata già profetizzata dal Montesquieu nella sua famosa teoria della divisione dei poteri. E cioè dire, in Italia la magistratura non è un pezzo dello Stato, ma è un corpo separato dello Stato. E diceva il Montesquieu e gli interpreti liberisti di questo pensiero che quando un potere si erge a corpo separato dello Stato, mina profondamente la coesione del corpo sociale e diventa un fattore di involuzione autoritaria, non democratica e illiberale. Ebbene, ok Michele, la devo interrompere perché è chiaro quello che dice. Il professor Di Federico ci ha spiegato poi in concreto quanto pervasiva sia la presenza di questo che non è un potere nella nostra Costituzione ma un ordine che poi invece diventa un potere, ma se lo prende il potere per debolezza della politica, secondo me, che insegue le richieste negli anni 60-70 su come si modifica l'ordinamento. Brevissimamente, Mario da Bergamo ancora? Sì, buongiorno, molto in sintesi. Io volevo dire questo, che quando sento parlare di associazionismo spinto, correntismo, riformismo e conservatorismo, credo che si parli di un fumo troppo denso perché il cittadino poi possa essere realmente convinto che il magistrato è sottoposto solo alla legge e per fortuna che non viene a vedere i processi in aula. Io volevo anche dire che secondo me sono tre gli nodi vitali e li dico molto in sintesi affinché si possa realizzare l'articolo 111 della Costituzione. Il primo è sicuramente la separazione delle carriere, la seconda è la responsabilità civile vera del magistrato e la terza è l'istituzione di tribunali speciali a composizione mista con, che ne so, un avvocato, un professore, un magistrato, in modo che a valutare e giudicare l'operato dei magistrati non siano sempre loro medesimi. Grazie. Ecco, questo terzo punto è molto, molto delicato perché su alcune materie, penso a quelle economiche, il fatto che non ci siano sezioni specializzate oggi con leggi come la 231 il magistrato è diventato detentore di poteri di vita e di morte di chi amministra una società e della stessa esistenza in vita di questa società, e questo a me non piace molto, a dire la verità, e invece giustamente c'è chi dice solo così si porta la legge e la giustizia anche nell'economia e nelle imprese. Io non credo affatto. Comunque oggi abbiamo dato uno spaccato a un termine un po' diverso dalla polemica del day by day tra politica e magistratura. Io ringrazio Livio Pepino, magistrato consigliere di Cassazione tra i padri di Magistratura Democratica, e poi ringrazio uno dei miei maestri ideali nella vita, il professor Giuseppe Di Federico, che invece è tra gli sconfitti insieme a chi la pensa come me. Grazie agli ascoltatori, grazie in redazione Antonella Migliaccio e qui a chi mi assiste in regia e Gloria Guerrera. Linea Generale Radio, ci sentiamo domani.